che farai? Mi leggi un foglio tra le mani, pensa che dirai, cosa ti aspetti da domani? La felicità chiusa nel guscio del futuro stenta sempre, ma a volte arriva di sicuro. Vieni, non c'è un posto per cadere, dove camminiamo, questa strada è tutta da vedere. Passa un vento tiepido e leggero, dopo il temporale come una bugia, che detta piano sembra verità. La mia geometria del posto esatto delle cose, la tua fantasia progetta opere grandiose. Risvegliarsi qui con i pensieri chiusi fuori, luci per la scena e una coperta di colori. Senti, c'è una musica nell'aria, che dovrà arrivare un treno pieno pronto per partire. Guarda come luccica la strada, dopo il temporale come una bugia, che lascia intendere la verità. Vieni, c'è una lista di occasioni, non ti puoi sbagliare, verrà un tempo senza previsioni. Guarda che si illumina la casa come un'astronave che ci porta via verso uno spazio senza gravità.